anche in altre, diciamo così, corrispondenze, interventi. L'assemblea di Roma Bene Comune, che si svolge domani al deposito ARAC a partire dalle 9:30 di mattina, al deposito ARAC occupato di San Paolo, ha cambiato evidentemente un po' le proprie caratteristiche nel corso dell'estate, insomma, e soprattutto perché entrerà immediatamente nel merito della manovra economica, della crisi e della necessità di costruire delle mobilitazioni, già anche con una serie di indicazioni che sono state lanciate anche a livello europeo. Insomma, nacque invece, come l'avevamo ricordato, come invece un'assemblea, diciamo così, di programma, per ragionare insieme anche con alcune realtà nazionali, insomma, di cosa fare. Oggi il che fare ce l'abbiamo un po' sotto mano, insomma, purtroppo. E quindi è un'assemblea, tra l'altro, che sta andando un pochino in crescita, sia per quanto riguarda le realtà che stanno aderendo, sia per quanto riguarda proprio i numeri della partecipazione, insomma. L'inizio dell'assemblea sarà, diciamo, abbastanza puntuale, perché l'idea è anche quella di arrivare al primo pomeriggio già con un canovaccio di proposte, raccogliendo anche le proposte magari che potranno arrivare dalle realtà di carattere nazionale, insomma. E si andrà a discutere di diverse cose, fra cui le mobilitazioni del 15 ottobre, fra cui cosa fare da qui al 15 ottobre, fra cui anche alcune bozze di programma, non solo di iniziativa, ma anche di idea differente di come va, di come si deve rispondere alla crisi. Insomma, ci sono tantissime adesioni, sono, diciamo così, adesioni sia collettive, ancora di più quelle diciamo così individuali. Insomma, stiamo parlando di centinaia di persone, decine e decine di organizzazioni, insomma, sia locali che di carattere nazionale, insomma. E quindi, un po' sinteticamente, l'invito è quello di partecipare, insomma. Partecipare, di venire ad ascoltare, e soprattutto di poi raccogliere un po' le indicazioni che vengono da questo ambito, che sicuramente non è l'unico che si sta esprimendo oggi sulla questione della crisi, della necessità di mobilitazione, però comunque un momento importante di confronto, sia territoriale, perché raccoglie appunto l'esperienza di un anno e mezzo di Roma Bene Comune, ma anche a livello nazionale, insomma. E sicuramente l'assemblea di domani rilancia la mobilitazione sotto la Camera a partire da lunedì alle ore 15, insomma. E le iniziative, i presidi che si sono tenuti nei giorni scorsi sono andate molto bene, insomma, anche se comunque sono, diciamo così, gestite da una rappresentanza del conflitto sociale, e soprattutto una rappresentanza di quel tessuto sociale che invece dovrebbe assaltare quel palazzo, insomma. Questo si può dire con estrema franchezza, insomma. Sappiamo però che, insomma, l'appuntamento di lunedì sotto la Camera a Montecitorio sta crescendo. L'indicazione è che anche i lavoratori e le lavoratrici si siano un po' scossi rispetto anche agli eventi, insomma, che sono accaduti al termine della votazione, insomma. Questo quindi ci fa ben sperare in una, due, tre giorni piuttosto intensa, insomma. Ovviamente si ripeterà un pochettino il canovaccio della presenza che è stata garantita a Piazza Navona, e quindi dibattiti, interventi, bandiere, striscioni, casino, tanto casino, rumore, musica, bandiere, insomma. È necessario provare a portare in piazza, ognuno con il suo modo, metodo, con la sua voglia, insomma, questa incazzatura che deve un po' rappresentare l'incazzatura di un popolo, quello italiano, di una classe lavoratrice, di soggetti sociali che però per il momento sono ancora un po' dormienti, insomma. È affidato, diciamo, non solo alle organizzazioni che convocano, ma anche ai singoli, è come dire affidato il compito di portare in piazza questo disagio e questa incazzatura, insomma. Senti, il passaggio, diciamo, da rivendicazioni di carattere preciso e particolare a invece magari una piattaforma di lotta più ampia e più generale, è un passaggio secondo voi naturale oppure, insomma, se ne discuterà? Com'è la situazione a tuo parere? Secondo me dovrebbe essere un passaggio naturale, sappiamo per l'esperienza che non è così, insomma. Cioè, sappiamo benissimo che quando si parte da una battaglia che è specifica, in genere una vertenza, sia che sia costruita all'interno del territorio che all'interno di un posto di lavoro, di un comparto produttivo o di un'area geografica, poi dare a questa vertenza inserirla all'interno di un quadro più generale e farla, diciamo così, assumere da tutti i soggetti sociali che stanno dietro quella vertenza, è un passaggio che non sempre avviene, è un passaggio che va costruito, insomma. In un certo senso abbiamo l'esperienza, appunto, della Val di Susa, che, insomma, viene spesso richiamata anche nei nostri discorsi, che sicuramente ci dà un'indicazione importante in questo senso, appunto, in questo salto di qualità, però anche lì è sempre comunque una battaglia specifica che ancora deve inserirsi in un tessuto, in una sintesi generale che poi può rappresentare un programma politico alternativo a questa manovra. Insomma, è uno sforzo che va fatto. L'assemblea di domani è un passaggio, ma ce ne saranno tanti altri, fra cui le indicazioni di lotta, insomma, che poi sono quelle che favoriscono in un certo senso a volte, insomma, questo salto di qualità.